ahora chiudo il mio silenzio. Quale corpo, quale azione? Il lato B della mia notte, un dubbio sempre più reale, che circola nel sangue, che si fa respirare. Chissà da dove parte il mio silenzio, quale sguardo, quale azione? Tutti noi siamo strani, siamo gatti randaci nascosti. Tutti noi, abitanti della terra, abbiamo un silenzio da decifrare. Questo dolore a uno di quei film che finiscono sempre bene. Qualcuno ci farà un film. Sguardi che si incrociano, mille informazioni diventano ricordi o strane fantasie. Tutto può accadere se non si è liberi, rinchiusi nel silenzio del nostro lato B.